Allora, questo articolo, questa intervista fatta a Remo Bodei è molto interessante. Perché? Perché Remo Bodei parla a una classe di allievi e quindi parla in modo molto semplice, molto chiaro, di etica e di morale. Lui, tra le varie cose che dice, la prima cosa è la distinzione tra etica e morale, che non è chiara a tutti. Che cosa significa? Etica è qualcosa che ha a che fare con ciò che è pubblico, con quello che è con il rapporto con la società, mentre morale è più un fatto intimo, interno. Ora, etica e morale possono naturalmente entrare in conflitto, perché etica ha a che fare col buon cittadino, faccio parte della Repubblica Italiana, è etico che io obbedisca alle leggi italiane. Però se le leggi italiane le ritengo ingiuste, ad esempio, non so perché mi obbligano a fare un servizio militare e uccidere delle persone, può essere che la mia morale vada contro quello che diciamo che sono le leggi civili. E quindi ci sia un contrasto tra l'etica esterna e la morale interna. Remo Bodei dice che per prendere posizione su questo bisogna essere grandi. Grandi spiriti, come è stato Socrate, come è stato Cristo, come è stato Buddha, come è stato Bertrand Russell, capaci di pagarne le conseguenze fino alla morte. Perché capisci che quello di considerare, distinguere tra quello che è un atteggiamento di grandezza da quello che è un capriccio è sottile la differenza, perché una persona ignare, che pigra, non voler obbedire alla legge, semplicemente che è disonesto. Va bene. Detto questo, c'è un altro punto molto interessante. Uno studente gli dice: ma lei dice che è molto difficile, no, storicamente distinguere tra condizionamenti giusti e ingiusti. Bodei dice: sì, è vero, però ci sono dei casi in cui lo si riesce a riconoscere. Ad esempio, i soldati algerini dovevano catturare. Scusate, sono andati francesi in Algeria, dovevano torturare i terroristi algerini, i prigionieri algerini, e questo lo facevano convincendosi che era una via necessaria per sconfiggere il terrorismo. Ora, alcuni di loro hanno avuto la forza morale, per i loro principi, per la loro idea di dignità umana, di non obbedire a questi ordini, ritenendoli manifestamente criminosi, pur sapendo che in questo modo si sottoponevano al tribunale militare che prevede anche la pena di morte. Allora, queste persone hanno avuto una grande forza interiore di esporsi a un rischio altissimo e lo hanno fatto per un principio morale, etico, della morale, etico della loro. Remo Bodei dice che queste persone hanno avuto chiaro quali erano le loro priorità. E poi aggiunge che non dobbiamo pensare che un'azione morale come questa sia un'azione semplicemente altruistica, un'azione nella quale è presupposto il contrasto tra altruismo e egoismo. L'egoismo sarebbe fare i propri fatti propri, e invece l'altruismo sarebbe sacrificarsi in nome di un ideale. Ecco, perché dice, quando io agisco moralmente, in sostanza lo faccio anche per me, e io aggiungerei soprattutto per me. Agisco in parte alla parte che io ritengo più nobile di me, al mio ideale, e quindi potremmo dire che è un egoismo altruistico. È un po' il concetto di Boris Porena che insegnava a suo figlio, no? Essere davvero egoista è chi è davvero egoista, che ci attiene davvero a se stesso, e nello stesso tempo anche altruista. Infatti la distinzione, faccio una parentesi, distinzione altruismo, egoismo è una distinzione che non appartiene alle persone autorealizzate. Nella famosa ricerca di Maslow sulle persone autorealizzate, questa distinzione non appartiene a loro. È una distinzione del tutto superata da una persona autorealizzata, come del resto l'altra distinzione tra dovere e piacere, tra lavoro e divertimento. Allora, dice, riprendo il tema, dice Remo Bodei, lo faccio per affermare qualcosa che costituisce la mia sostanza, il mio credo più profondo e da cui io derivo la mia autostima. In fondo, dice, la moralità o l'eticità ha una bella ricaduta, ha la ricaduta di darmi questo sentimento di essere nel giusto. Attenzione, questo può anche diventare fanatismo e quindi può diventare pericoloso. Però, a parte questi casi, mi dà contemporaneamente l'idea che io non sono un Valtagabbana, una banderuola, un tappo di sughero che è soggetto a tutti i movimenti e che è manovrato dagli altri. Cioè, in sostanza, dicevo Dei, la moralità è questo senso di essere coerenti con se stessi e quindi essere integri e forti. Ora, io ritengo che queste affermazioni fatte da un filosofo sono l'importanza fondamentale per capire la psicologia umana, assai di più della maggioranza di ricerche fatte di psicologia. Indico qui adesso qual è la sintesi che ne ho tratto, in poche parole. Allora, quando io agisco moralmente, a costo di pagarne un prezzo anche elevato, ricordo quando noi siamo usciti dalla cittadella pagandone un prezzo notevole, abbiamo iniziato tutto un lavoro in salita, perché noi ritenevamo giusto così, ecco. Ebbene, quando io agisco moralmente lo faccio anche per me, io agisco e dico e aggiungo lo faccio soprattutto per me, se ho capito davvero le cose. Perché agisco in parte, perché agisco in base alla parte che io ritengo la più nobile, cioè la mia sostanza, la mia vera identità, il mio ideale. Quindi è un egoismo altruistico. O, se vuoi, un altruismo egoistico. Scusa, se vuoi, un egoismo altruistico, insomma, uno o l'altro. Io non lo faccio semplicemente per sacrificarmi. Lo faccio per affermare qualcosa, ripeto, che costituisce la mia sostanza, il mio credo più profondo, e qui importante, da cui deriva la mia autostima. Quindi quando agisco moralmente ne ho un vantaggio, molto grande. La moralità o l'eticità hanno il potere di darmi il sentimento di essere nel giusto, non di fingere di esserlo, ad esempio come fa il paranoide, perché è scisso al proprio interno. L'idea che io non sono un Valtagabbana, una banderuola, mi dà l'idea di essere coerente, quindi coerente con me stesso, allineato, e la coerenza e l'allineamento mi dà integrità e forza. E concludo, l'integrità mi radica nella forza e nell'autostima, mentre il racket, la manipolazione, la doppiezza, quello che sappiamo, mi genera debolezza e sfiducia. Uscendo dal racket, ecco quindi l'importanza del lavoro sul racket, uscendo dal racket, assumendo la responsabilità per il passato, chiedendo scusa, rimediando, acquisto la forza che deriva dall'essere in armonia con me stesso, col mio vero sé. E questa è una via che è contemporaneamente etica, spirituale, nello stesso tempo rinforza l'io governo, mi rinforza come persona. Allora, ecco perché parlo del linguaggio non duale, perché nel linguaggio duale o sei altruista o sei egoista, o sei una persona che bada al proprio interesse oppure all'interesse altrui, e quindi essere una persona etica di solito comporta un prezzo da pagare. Bene, nella visione non duale, essere una persona etica è il più grande vantaggio che esista, mentre non lo è essere una persona immorale, perché l'immoralità mi dà il senso di incoerenza, cioè io mi comporto in modo incoerente e come persona incoerente mi produce frantumazione al mio interno e la frantumazione è sofferenza. Adesso dico due cose a proposito del contesto. Se io vivo in un contesto dove i condizionamenti mi portano ad avere un credo di tipo A, mentre io nel mio profondo ho un credo di tipo B, se io rimango dentro quel contesto, ad esempio io sono rimasto molti anni nel contesto accademico, ebbene, dove c'era un credo di tipo A, mentre io avevo un credo di tipo B, questo mi indebolisce. Mi indebolisce perché genera dentro di me una frattura. Se io sono diretto e onesto e definiscolo qual è il mio credo, può darsi che l'istituzione mi espella o mi accetti. In ogni caso io riacquisto tutta la mia forza. Se invece rimango in istituzione mantenendo doppiezza, io mi indebolisco e a quel punto non solo perdo integrità, perdo moralità, perdo armonia, perdo forza, tutto insieme. Allora, nel metamodello 2, che è il metamodello che è quello idoneo, a creare a utilizzare il linguaggio in modo da portarci verso la realizzazione come persone, verso la nostra crescita personale. Allora è importante che certe distinzioni non le facciamo più. E al po' tipo egoismo, altruismo, interesse personale, interbene comune e così via. E che cominciamo al posto di queste a affermare altri tipi di distinzioni che nella cultura duale rimangono sullo sfondo, ad esempio la qualità delle relazioni. In due parole, nella nostra cultura duale, in cui il soggetto si separa dall'oggetto, ed è molto bello in questo senso tutto il discorso di Foucault rispetto alla partage, noi creiamo la nostra attività, l'identità, attraverso una sequenza di partage. Io non sono un delinquente, sono una brava persona, io sono, non sono un perverso, sono sessualmente a posto e così via. Io sono una persona etica, non una persona immorale. Bene, come dice Foucault, noi creiamo la nostra individualità attraverso tutta una serie di partage, cioè di separazione. Mentre creiamo la nostra individualità e ci liberiamo, e liberiamo quindi il nostro potere come esseri individuali, nello stesso tempo, se procediamo in questo modo, quindi attraverso l'uso di un linguaggio duale, creiamo anche la nostra gabbia. La gabbia di che tipo di gabbia? La gabbia che deriva dal fatto di non riconoscere più certe parti di noi che vanno a finire nell'ombra. Quindi è vero che io mi individuo, divento un individuo distinto, ma è anche vero che dentro di me c'è una fissura, ho l'ombra dentro di me. E l'ombra che ho dentro di me, come sappiamo, mi domina. Cioè tutti i contenuti che io ho voluto relegare nell'ombra agiscono come forze del mondo esterno su di me, pur essendo nel mondo interno. Allora, ecco l'importanza di arrivare a un linguaggio non duale in cui non pratico più quel tipo di distinzioni che indeboliscono me e la società e arrivare a un linguaggio di tipo non duale, dove io, quando mi distingo, non genero più l'ombra, perché non mi distingo più dal delinquente, perché delinquere è essere immorali, è un verbo, è un'azione. E allora io posso dire, io sono una persona che in questo momento partecipo a azioni morali, integre, o in altro momento invece ad azioni immorali. E non dico più io sono una persona morale, perché non è vero. Le parti mie che sono immorali verrebbero messe in carcere, cioè dentro di me, e poi agirebbero nella notte dell'inconscio. Dico che quello che succede alla maggior parte delle persone che non rispondono a questo comportamento, a questa immagine, è quello di rimanere nella paura, nel senso dell'appartenenza e quindi anche nella pigrizia, se vogliamo, no? Per cui si comportano in maniera non etica, secondo quello che tu dicevi, però lo fanno perché hanno un altro scopo. Che è uno scopo magari meno evoluto, quello che vuoi. E niente, per cui questo discorso del linguaggio dell'essere e del linguaggio non duale riguarda un certo livello di evoluzione, non un altro. Sì, sicuramente riguarda un certo livello di evoluzione che però è alla portata di tutti, perché è integra l'aborigeno australiano che rispetta i propri principi e quindi l'evoluzione non dipende dalla cultura in cui apparteniamo. Noi ci crediamo evoluti per semplicemente perché siamo sofisticati. Ma in realtà, ad esempio, gli europei, insieme a Colombo, sono andati alla conquista dell'America, erano decisamente meno evoluti dei popoli indigeni. Erano superiori nelle armi, non nell'evoluzione morale, anche se si ritenevano portatori dell'unica vera religione. Ecco. Quindi, è vero che non c'è un'etica universale e che, come dice anche Floris d'Arcais, l'uomo ha bisogno di etica e l'etica, potremmo dire, è la scienza della felicità, cioè è il discorso su come noi possiamo creare al nostro interno una gerarchia di valori che sia utile per la nostra felicità. Ma qualunque sia la gerarchia di valori che interiorizziamo, vale un principio più generale, che se la gerarchia di valori non è coerente almeno con se stessa e col contesto limitrofo, dentro l'essere umano si produce sofferenza, e questo in tutti i tempi, in qualunque latitudine e in qualunque momento. Florence Skies dice: beh, l'uomo, a differenza degli animali, non è guidato dagli istinti. L'animale sa cosa fare in base all'istinto, l'uomo non lo sa. Che cosa guida l'uomo? L'etica. Cos'è l'etica? In termini PNL è chiarissimo, è la gerarchia di valori, delle priorità che guidano le nostre scelte. In tempi diversi l'etica è differente. E come dice Mayr, Ernst Mayr, il grande biologo del Novecento, un conto è l'etica che poteva andare bene 2000 anni fa, per esempio moltiplicatevi il più possibile perché eravamo a rischio di estinzione, oggi siamo a rischio di estinzione se ci moltiplichiamo troppo, quindi mentre allora poteva essere una norma etica non disperdere il seme, diciamo così, oggi è una norma etica disperderlo il più possibile. Quindi l'etica cambia con il cambiare del tempo, col cambiare delle situazioni, della cultura. Se posso dire, forse uno dei principi che invece non cambia è quello di coerenza interna del sistema. Così come un coleottero, chiaramente è diverso da un mammifero, però qualunque sia la differenza tra il coleottero e il mammifero, ci sono dei principi che valgono per entrambi. Se c'è una buona comunicazione interna nel sistema del coleottero, il coleottero è sano, come è sano un mammifero che ha una buona comunicazione interna. Se il coleottero è in conflitto, cosa che reputo piuttosto difficile, o come se un mammifero è in conflitto con se stesso, è nevrotico. E se è nevrotico, si indebolisce, perché gli automatismi, quelli che l'azione diretta, spontanea, viene meno. Quindi tutte le volte in cui noi abbiamo dei conflitti, e i conflitti sono non contingenti, ho conflitto perché mi è capitato questo, i conflitti derivano dai nostri presupposti, e cioè dalla nostra gerarchia di valori che è conflittuale in sé. Quando noi abbiamo un conflitto tipo etico, ed è sempre di questo tipo di conflitti di cui parliamo, allora io sono debole nei confronti della realtà, perché la mia azione non può essere né in un modo né nell'altro. Se agisco in un modo sbaglio per l'altra parte, se agisco in un'altra parte sbaglio per la prima. Ecco. E così via. Quindi potremmo dire che qualunque sia il tipo di etica che noi seguiamo, ci dovrà essere una coerenza tra la nostra etica e quella del contesto limitrofo, almeno di quello della nostra famiglia, delle persone che ci sono più vicine. Inoltre ci deve essere una coerenza interna al sistema di valori. Prendi ad esempio Darwin, che ha vissuto per 30 anni in un conflitto insolubile di tipo etico, se dire la verità alla comunità scientifica o non dirla, la verità delle sue scoperte. Nello stesso tempo conflitto con sua moglie, perché aderire alla verità delle sue scoperte significava tradire la concezione biblica, che sua moglie era cristiana, cioè tu vai all'inferno. Questo conflitto ha portato un uomo robusto come Darwin a vivere come un paralitico, cioè non poteva più uscire di casa per 30 anni, soltanto quando presa la decisione di andare a dichiarare ciò che aveva scoperto, perché ormai lo stavano scoprendo altre persone, e in quel momento riprese tutte le forze, ma aveva ormai quasi 70 anni.